Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Andrea Bonaveri. Manichini per 60 anni. Di Alessandra Scaglioni. Bonaveri è un'azienda che produce manichini, quelli che si vedono nelle vetrine dei grandi stilisti o nelle catene dei department store in giro per il mondo, e quelli su cui gli stilisti lavorano. La sede è in provincia di Ferrara. Oggi è un'azienda che produce dai 18 ai 20.000 manichini all'anno, che ha tra i suoi clienti molti grandi stilisti internazionali e sta aprendo una sede in Oriente. Ma la sua storia nasce negli anni 50, dal padre di Andrea Bonaveri. Come nasce? Nasce da un'idea di mio padre che nel 1950, dopo il servizio militare, un ragazzo di 20 anni, non sapeva esattamente che strada percorrere. In quel periodo, per poter guadagnare qualche soldino, essendo lui appassionato di scultura, faceva qualche maschera di carnevale per conto di qualche società carnevalesca, perché dove abitiamo noi a Cento, in provincia di Ferrara, c'è questa tradizione carnevalesca. E lui, questo giovanotto, negli anni 50 cercava di guadagnare qualche lira facendo questo mestiere. Passando di lì, un giorno un sarto notò che stava utilizzando della carta pesta e disse: ma sai che anch'io in sartoria ho un busto da sarta che è realizzato in carta pesta. E lì è nato tutto. Lui ha cominciato a ragionare, ha cominciato a fare i primi giri a Bologna, a Ferrara, nelle città limitrofe, per vedere come erano fatti questi manichini. E ha iniziato, con i primi soldi guadagnati appunto da queste maschere di carnevale, comprare un po' di cartone, colla, scagliola, e così da solo si è inventato un mestiere. Gli inizi sono quelli di un'attività artigianale, in un mercato dove i manichini erano utilizzati dalle sarte o potevano essere venduti ai negozi di tessuti. Inizialmente andava in giro con la sua bicicletta e il carrettino col manichino dietro, proprio per tentare di venderlo in questi negozi, ma non erano negozi di abbigliamento. Allora c'erano, come dire, negozi che vendevano tessuti, perché negli anni 50 non c'era ancora la confezione, se non nelle grandi città. E allora sì, anche in quel caso lì si era inventato un po' il mestiere del vetrinista o dello stilista, cioè proponeva il manichino e si proponeva anche di fare vetrina. Con questi drappeggi realizzava abiti da mostrare in vetrine, e così è iniziato pian pianino. Poi successivamente ha cominciato, a seconda di qualche richiesta di qualche cliente, così a realizzare dei manichini un po' più particolari. Ecco, ha iniziato ad affittare qualche camera, qualche laboratorio all'interno di questo ghetto degli ebrei, e ha iniziato a costruire i suoi manichini, prendendo qualche dipendente, iniziando a fare i primi manichini, proponendoli ai clienti. Via via ha costruito la sua azienda. La prima sede è in affitto, in quello che allora si chiamava, a Cento, Ghetto degli Ebrei. E i primi clienti sono della zona: Ferrara, Bologna e poi Milano. Perché allora non c'era assolutamente nulla, i manichini venivano utilizzati solo ed esclusivamente nelle grandi città. Milano, per esempio, li aveva la Rinascente, ecco, oppure a Parigi le Gallerie Lafayette. Iniziò a viaggiare, a guardarsi un po' intorno, a cercare nuovi clienti. All'inizio sono stati anni molto duri. Il cambiamento, diciamo, che è avvenuto successivamente, quando mio padre ha cominciato a fare le fiere all'estero, in Germania per esempio, o anche a Milano. Per esempio, allora c'era una fiera molto importante, la Fiera Campionaria di Milano, mi ricordo che durava 12 giorni, era una follia. E in questa fiera c'era la possibilità di trovare nuovi clienti che potevano essere europei o anche americani e addirittura del Medio Oriente. Il suo intento era quello di esportare manichini in tutto il mondo. Questo era il suo sogno. Intanto Romano Bonaveri ha conosciuto quella che sarebbe diventata sua moglie, e che sin dai primi tempi ha iniziato a condividere con lui gli impegni del lavoro. Addirittura le racconto un aneddoto molto, molto spiritoso, ma che è reale. Il giorno di matrimonio, mio padre, prima di andare a sposarsi, in chiesa fece una consegna di manichini per poter rispettare la parola data al cliente, e successivamente andò in chiesa a sposarsi. Nei primi anni 70 c'è il progetto di costruire una sede di proprietà dell'azienda e lasciare la sede in affitto. Ma una volta comprata la terra, c'era bisogno del denaro necessario per costruire la struttura. Comprò 3.000 metri di terra per 6 milioni di lire. Ecco, e fu un grosso sacrificio. Solo che non aveva i soldi per costruire il capannone. Aveva bisogno di un prestito, di un finanziamento da parte della banca. Si presentò dal direttore di banca con il suo bel progetto fatto da lui, disegnato da lui, e gli raccontò un po' tutto quello che voleva fare. Il direttore naturalmente gli chiese le garanzie per poter avere questo prestito. E mio padre ingenuamente lo guardò e gli disse: le uniche garanzie che le posso dare sono queste due mani. E gliele mostrò. Tra l'altro sono mani abbastanza grandi e allora erano anche molto callose. E il direttore, niente, glielo diede e lui iniziò questa nuova avventura, costruì il suo nuovo capannone e da lì iniziò, insomma, via via a progredire nel lavoro. E il mondo della moda inizia a cambiare. Arrivano le prime catene di negozi, cambiano i clienti di riferimento e anche il prodotto. Il mercato diventava più interessante perché stavano per arrivare gli anni 80 e il boom del Made in Italy. Cambiava la tipologia, ma cambiava anche il manichino, cosa che i primi manichini venivano fatti in cartapesta, negli anni 70 appunto venivano costruiti con del stampaggio di materie plastiche. I capelli non erano più scolpiti in gesso, ma venivano fatti in nylon. Gli occhi non venivano più dipinti, ma venivano applicati occhi di vetro. Quindi c'è stata tutta un'evoluzione nel mondo del manichino. Un'evoluzione fino ad arrivare negli anni 80, quando è scoppiata proprio il Made in Italy nel mondo della moda, con la venuta di grandi stilisti tuttora ancora in auge: Giorgio Armani, Valentino, tutti i grandi couturier di moda che hanno cominciato a esportare moda e Made in Italy. Noi eravamo lì presenti, pronti, e abbiamo seguito un po', come dire, la scia di questi grandi stilisti. Fortunatamente ci conoscevano, ci facevano richieste particolari, specifiche per le loro esigenze, e noi realizzavamo manichini personalizzati per tutti questi stilisti. Oggi l'azienda è una delle più importanti del mondo nella produzione di manichini d'alta gamma. Ha 60 dipendenti, un fatturato intorno ai 15 milioni di euro. La struttura distributiva conta 12 uffici di rappresentanza in tutto il mondo, da New York a Parigi, da Tokyo a Melbourne. Nel 2001 ha acquisito il marchio svizzero Schlappi. Alla guida ci sono Andrea Bonaveri e il fratello Guido. Negli anni 80 io e mio fratello abbiamo iniziato a entrare in azienda a lavorare a tempo pieno, anche se comunque siamo nati all'interno di questa azienda, perché avendo avuto due genitori che hanno dedicato tutta la loro vita al lavoro e allo sviluppo di questa società, ovviamente anche noi eravamo coinvolti in questa loro vita, e quindi da bambini si andava in azienda, si passava là delle ore a giocare, non so, con le mani dei manichini piuttosto che con le parrucche e a fare le senette. Così giocavamo io e mio fratello in questo modo. Io mi ricordo che iniziai a lavorare come verniciatore, ecco, e invece mio fratello iniziava a stampare i manichini con le macchine dello stampaggio della plastica. E anche oggi i loro ruoli all'interno dell'azienda sono diversi. Il mio ruolo all'interno dell'azienda è sicuramente la parte creativa e la parte commerciale e della comunicazione e marketing. Il ruolo invece di mio fratello Guido è un ruolo di direttore tecnico all'interno dell'azienda, e una parte molto importante è la progettazione 3D, in quanto i manichini attualmente vengono sì realizzati con uno scultore, quindi alla stregua di una normale scultura in argilla, ma possono anche essere progettati col computer con queste tecniche tridimensionali che ci sono oggi. E questa è la parte che si occupa mio fratello. Il prototipo dei manichini, come abbiamo sentito, viene fatto dallo scultore. La produzione viene poi realizzata in serie all'interno della nuova sede di 12.000 metri quadrati, costruita su un'area di 40.000 metri quadri, sempre a 100 pochi anni fa. Questa nuova sede, che è stata progettata e voluta fortemente da noi, da me e mio fratello, doveva essere, come dire, uno specchio della nostra filosofia, una filosofia di cercare a tutti i costi di lavorare comunque in un ambiente piacevole e di benessere. Non a caso abbiamo giardini interni all'interno degli uffici, abbiamo dei giardini all'interno della fabbrica, spazi molto grandi, luminosi, attrezzature moderne. Cerchiamo di riportare questa nostra passione anche sui dipendenti. Non a caso ci sono dei dipendenti da noi che sono 30 anni che lavorano con noi, 20 anni, 10 anni. Non c'è un grosso turnover, sono tutte persone che sono con noi da quando erano bambini. L'80% del fatturato viene dalle esportazioni in tutto il mondo, il 15% negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti bisogna considerare che i grandi magazzini, cioè i department store americani, tipo Macy's, Saks Fifth Avenue, Bloomingdale, Bergdorf & Goodman, sono tutti grandi magazzini che hanno a loro volta filiali in tutte le maggiori città degli Stati Uniti, per cui un Saks oppure un Macy è capace di avere 40 department store in tutti gli Stati Uniti. Quindi se ti fa un ordinativo di qualche manichino deve moltiplicarlo per tutte le loro filiali, per cui è un po' un nostro mercato di riferimento. È ovvio che esportiamo anche in Medio Oriente, dove ci sono le maggiori boutique dei maggiori stilisti italiani, francesi e americani, e poi in Germania, un ottimo mercato per noi, la Francia, dove ci sono le maggiori maison di fama mondiale, tra cui Hermès, Louis Vuitton, Chanel. Poi ci sono le mostre storiche, i musei del costume, le retrospettive degli stilisti, con i manichini presenti a Palazzo Pitti, scelti da Roberto Capucci, e presenti nei musei internazionali. Oltre a lavorare con i department store e i grandi stilisti, noi collaboriamo anche con diversi musei, i quali hanno al loro interno delle gallerie del costume. Una delle più importanti e la più conosciuta è sicuramente la Galleria del Costume, che c'è al Metropolitan Museum di New York, dove noi abbiamo costantemente dei rapporti di lavoro, in quanto loro fanno continuamente manifestazioni a favore di stilisti. Una delle prossime mostre sarà quella di Alexander McQueen, che è recentemente morto, e forniremo appunto i manichini per questa mostra. Il fondatore dell'azienda, Romano Bonaveri, ha 83 anni e gira in bicicletta nei capannoni per controllare la produzione. Per il futuro lo sguardo è anche verso Oriente, dove è nata da pochissimo una società, la Bonaveri Hong Kong, destinata a gestire la produzione, la distribuzione e la vendita di manichini sul territorio cinese. Ma il futuro dell'azienda naturalmente è sicuramente in mano a me e mio fratello, e stiamo portando avanti alcune iniziative molto importanti per la nostra società. E sono quella, per esempio, che abbiamo recentemente aperto una nuova società ad Hong Kong, la Bonaveri Hong Kong, dove si occuperà della commercializzazione e la produzione in loco di manichini per il mercato cinese e sud-est asiatico. Questo perché? Perché il futuro noi lo vediamo più che altro al di là dell'oceano, cioè verso l'Oriente. La nostra idea è quella di gestirsela tra di noi, anche perché sennò ci toglieremo il divertimento. Questo per cui il futuro della nostra azienda è sicuramente nelle nostre mani, dei nostri figli. Già io ho due figli, mio fratello ha un figlio già grandicello, ha 18 anni, che comincia a frequentare già i nostri uffici, per cui noi vediamo questo nel nostro futuro. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.